Tutte e tutti, questa è la nuova puntata di Uru. Stasera partiremo dal Sudafrica per una trasmissione di jazz. Vi ricordo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org, Twitter.com Radio Wombat Fi. Facebook radio-wombat-firenze, la mail posta wombat@insiberia.net. Se volete sapere notizie e vi interessa la nostra trasmissione, abbiamo aperto un profilo Twitter su quello che riporta non solo la trasmissione con anteprime, eccetera, ma anche le notizie dall'Africa, delle cose che ci interessano di più. Il profilo è uru-rw dal Radio Wombat. RW appunto che sta per Radio Wombat e quindi appunto 19ª trasmissione di Uru interamente dedicata al jazz sudafricano e in particolare al jazz di due città del Sudafrica, le due capitali del jazz sudafricano, Johannesburg, Joburg per i sudafricani, diciamo, soprattutto per gli abitanti di Johannesburg e Città del Capo. E tra l'altro all'interno di queste due città, due quartieri particolari, District 6 per quanto riguarda Città del Capo e Sophia Town per quanto riguarda Johannesburg. Ambedue durante l'apartheid hanno subito la stessa sorte, e cioè spianati dai bulldozer, dalle ruspe del governo dell'apartheid, dal regime dell'apartheid, proprio perché ambedue i quartieri erano quartieri misti. District 6, Città del Capo, abitato da neri e da colorate, cioè dai malesi, cioè i discendenti dagli immigrati dal continente, insomma, o meglio dal continente asiatico, sì, e quindi in particolare dall'India. Sophia Town invece era abitata da neri e anche da bianchi. Ambedue quartieri appunto sono stati rasi al suolo dal regime dell'apartheid proprio per impedire questa contaminazione tra razze bianca e nera e anche per impedire tutto quello che rappresentavano, in particolare dal punto di vista culturale, in particolare dal punto di vista musicale, appunto il jazz. E District 6 per un verso, Sophia Town per l'altro, hanno dato il via a due generi di jazz abbastanza diversi tra di loro, anche se ambedue caratterizzati dalla presenza delle grandi orchestre, dalla presenza di ritmi danzanti e via di genere. Il jazz di Cape Town, chiamato proprio appunto Cape Town Cape Jazz, era ed è tuttora diciamo sottolineato, cioè la particolarità di essere un jazz molto vicino al bebop statunitense. Un jazz cool, diciamo, mentre invece il jazz di Sophia Town è un jazz molto più rustico, diciamo, da questo punto di vista, ma suonato più uno street jazz, suonato prevalentemente, se non quasi esclusivamente per strada, con la particolarità di utilizzare uno strumento particolare, cioè il clarinetto o il flauto, e quindi con delle sonorità molto abbastanza diverse rispetto a quello di Città del Capo. Vi facciamo ascoltare quello che è il primo pezzo, diciamo, il primo autore, insomma, e cioè Abdullah Ibrahim. Il primo pezzo che mandiamo è Abdullah Ibrahim, che è uno dei più famosi artisti sudafricani, che suona il piano, ma anche sassofono, flauto, violoncello. Nato a Cape Town, abitava appunto nel District 6, e cresce ascoltando musica tradizionale africana, specialmente gospel e poi jazz. Nel 59 conosce il sassofonista Kippie Moeketsi, che più tardi ascolteremo, che lo convince a dedicare la propria esistenza alla musica. Fonda la prima band alla fine degli anni 50, The Jazz Epistles, che anche quella ascolteremo più tardi, è una super band, e dopo canta con loro in tutto il Sudafrica, si sposta con loro in tutto il Sudafrica. Dopo il massacro di Sharpeville nel 60, la situazione nel paese si complica parecchio perché cominciano ad esserci le leggi proprio volute dal regime razzista che impediscono a neri e bianchi di suonare insieme, eccetera. Lui dopo continua a suonare e nel 74 scrive Mannenberg che parla delle township, cioè i Cape Flats, perché si trovano nella parte più bassa, ventosa, e dove non c'è un albero neanche a pagarlo, dove erano stati deportati gli abitanti del District 6, suo posto nativo. Questo album diventerà un inno anti-apartheid. Nel 76, in seguito alle proteste degli studenti di Soweto per l'introduzione dell'Afrikaans come prima lingua nelle scuole, il Soweto Uprising, dichiarerà di aderire all'ANC, che era ancora fuori legge. Di lui ascoltiamo Bombella, Dollar Brand, e cioè Abdullah Ibrahim. Thank you. appunto Dollar Brand, uno dei jazzisti più rappresentativi del Cape Jazz, del jazz di Città del Capo e quindi del District 6. Vi parlavamo precedentemente di Sophiatown, questo quartiere, conosciuto anche colloquialmente come Softown o Covifi, e per qualche tempo ribattezzato anche Triumph, è un sobborgo di Johannesburg, di Joburg, la cui storia è strettamente legata a quella di Soweto e alle vicende della lotta contro l'apartheid. Sophiatown venne fondata nel 1899 come insediamento abitato da bianchi, ma già nei primi decenni del XX secolo, in base alle prime leggi razziali del governo, Sophiatown rimase una delle poche aree intorno a Joburg, insieme a Alessandria, New Clare, Martindale. Alessandria è ancora uno delle township più grosse, più popolose, più combattive di Joburg, dove i non bianchi potevano acquistare terra. E quindi si trasformò rapidamente in una township, cioè uno dei pochissimi posti del Sudafrica governato non ancora dalle leggi dell'apartheid, però comunque dai bianchi, in cui i neri potevano acquistare un lotto di terra e quindi costruirci una casa. E quindi durante la prima guerra mondiale la popolazione di Sophiatown crebbe a dismisura, crebbe rapidamente, accogliendo molti neri che nel frattempo stavano venendo allontanati dal centro di Johannesburg, un po' come succedeva in tutte le capitali, in tutte le grandi città europee e anche americane. E quindi vi si svilupparono attività commerciali principalmente legate alla produzione di birra, e la popolazione del sobborgo aumentò ulteriormente dopo la seconda guerra mondiale. Negli anni 40 e 50 divenne uno dei centri dell'arte, se no il centro principale dell'arte, della politica e in generale della cultura nera e quindi della sudafricana e quindi della resistenza contro l'apartheid. A Sophiatown per esempio si trovavano dei cinema, uno dei quali era anche adibito a spettacolo dal vivo, e qui acquisirono la popolarità i Jack e Pistoles, che è il gruppo musicale di Hugh Masekela, diciamo il primo gruppo diciamo che ha suonato jazz in Sudafrica, diciamo riproponendolo, riattualizzandolo rispetto a quello che erano fino a quel momento semplicemente dei prototipi del jazz sostanzialmente. E nel 1953, in seguito a un decreto noto come Group Areas Act, con cui sostanzialmente si stabiliva che diversi gruppi etnici all'interno del Sudafrica dovevano abitare in regioni geograficamente distinte e quindi sostanzialmente il principio fondante dell'apartheid, il governo stabilì che la popolazione di Sophiatown, etnicamente mista, come dicevamo precedentemente, cioè bianchi e neri, doveva essere trasferita. Chiaramente una decisione dettata dal regime dell'apartheid, dall'imposizione delle leggi dell'apartheid, ma anche perché, come è successo per il District 6 e come succede molto spesso, diciamo che la motivazione politica sottintende anche una convenienza economica. Il terreno faceva gola, era ancora sostanzialmente relativamente vicino al centro di Johannesburg, che quindi si rade al suolo Sophiatown non solo per non permettere relazioni tra bianchi e neri, ma anche per farci una mega speculazione edilizia. E la decisione di dare inizio a una battaglia popolare. Si schierarono contro il trasferimento e sostanzialmente contro una deportazione anche l'Africa National Congress e anche padre Trevor Huddleston e perfino Ruth First. Ricordiamo che Ruth First era una bianca, una dei primi membri, anzi uno dei membri fondatori del Partito Comunista Sudafricano, e che fu uccisa da una lettera a bomba quando era in esilio a Maputo, in Mozambico, proprio da parte dei servizi segreti sudafricani. E quindi appunto la decisione di distruggere Sophiatown dà origine a questo sommovimento, a questa rivolta, ma il 9 febbraio 1955 la polizia entra a Sophiatown con veicoli corazzati e sgombra il sobborgo, trasferendo le proprietà in una zona delle Midlands che ora è chiamata Soweto. E appunto Sophiatown ci hanno vissuto, sono nati alcuni degli artisti e quindi i jazzisti più famosi del Sudafrica, non solo Hugh Masekela, ma anche per esempio Miriam Makeba, Kopin Kwetsi ed altri ancora. E vi facciamo ascoltare un pezzo che non è di una cantante, di una jazzista, in questo caso una donna, nata a Sophiatown, bensì nata in Zimbabwe. Sì, è nata in Zimbabwe, allora Rhodesia, sotto il controllo sudafricano appunto, e si fece, quando ancora era in Zimbabwe, si fece notare subito attraverso il coro della scuola. Cominciò a voler cantare per forza, tant'è che è scappata diverse volte dalla scuola. E quindi alla fine ha preso un treno e si è spostata in Sudafrica. E dove è andata? Naturalmente a Sophia Town, che era allora il crogiolo artistico di Johannesburg. Lì Dorothy Masuka, perché di lei parliamo, diventa una delle voci jazz sudafricane più importanti, come quasi tutti gli altri artisti. Per colpa della repressione dell'apartheid è dovuta andare in esilio, ma appena è potuta tornare, è tornata prima nell'80 quando c'è stata la liberazione dello Zimbabwe e dopo nel 94 quando c'è stata la liberazione del Sudafrica nero dall'apartheid bianco. Di lei ascoltiamo Ngihamba Ngedwa. È un pezzo che, a differenza di quelli ascoltati precedenti da Abdullah Ibrahim, è proprio un altro tipo di jazz, è molto vicino alla quela, cioè un jazz. In Sudafrica viene chiamato anche street jazz perché vengono utilizzati meno strumenti, pochi strumenti, e in cui la voce ha una grande importanza. Ngihamba Ngedwa, questo è Dorothy Mazzuca. Buriza uhambe na mila pegoli Ngihamba Ngedwa ascoltato Dorothy Masuka, vi ripetiamo i nostri social wombat.noblogs.org per ascoltare lo streaming in diretta e potete avere la possibilità sia di consultare il palinsesto per vedere tutte le trasmissioni che compongono Radio Wombat, oppure dal menu più a sinistra potete scaricare i podcast di tutte le trasmissioni per ascoltarle quando preferite. Vi ricordiamo che URU va in diretta il venerdì alle 9.30, alle 21.30 e in replica la domenica alle 10 la mattina e il lunedì alle 14. Quindi se volete riascoltare le puntate questi sono gli orari. Vi ricordiamo che abbiamo attivato anche il nostro profilo Twitter, quindi URU trattino basso RW di Radio Wombat, e potete mandarci un'email a posta wombat@insiberia.net oppure potete seguire il profilo della radio su cui naturalmente anche noi ci siamo, che è Radio Wombat Firenze. Facebook invece è Radio trattino Wombat trattino Firenze. E ricordiamo anche gli appuntamenti della prossima settimana, in particolare un appuntamento, cioè quello di domani al CSA Emerson, perché ci sarà una serata di benefit per Radio Wombat e quindi vi invitiamo caldamente a partecipare, una serata caratterizzata da un dub conference, in cui ci sono quattro gruppi, fra cui in particolare il Miruzzi, che è un gruppo fiorentino, un sound system fiorentino, e quindi ecco domani dalle 21.30, 22, forse anche 22.30 al CSA Next Emerson, via di Bellagio 15, una serata benefit per Radio Wombat, è sempre al centro sociale Next Emerson, e quindi sempre via di Bellagio 15. Domenica viene organizzata dal gruppo di tango del centro sociale una milonga. La milonga è il tango, diciamo, in cui non c'è un corso, diciamo, ma bensì una serata con musica tanghera, musica appunto dall'Argentina, e questa milonga in cui appunto viene ballato il tango, ma chiaramente è aperto il bar, è aperto tutto quello che serve, diciamo, per passare una serata, anche se non ballando il tango. Mentre invece nella prossima settimana ci saranno diverse iniziative e il 6 prossimo ci sarà anche la manifestazione NOTAV in Val di Susa, in cui si stanno organizzando partenze anche da Firenze, e quindi insomma un invito a partecipare alla manifestazione, seppure non nella nostra città, comunque una manifestazione nazionale in cui lanciata attraverso un appello da parte delle situazioni, dei collettivi che si stanno battendo in Val di Susa contro la TAV. Mentre invece il prossimo è il 1° maggio e Mondeggi festeggia diciamo, una sorta di compleanno. Quindi fin da mezzogiorno, fin dal pranzo, ci sarà questa festa, a cui successivamente ne farà seguire un'altra due fine settimana successivi, proprio per ribadire e rilanciare la lotta per una fattoria senza patroni, come appunto vuole essere Mondeggi. E ritorniamo alla nostra trasmissione, ritorniamo al jazz, ritorniamo al Sudafrica. Due giorni fa, il 27 aprile, era il Freedom Day, la festa nazionale del Sudafrica, una sorta di 25 aprile, perché il Freedom Day è stato così chiamato perché è il giorno in cui si sono svolte nel 1994 le prime elezioni libere in Sudafrica. Tutti o molti, o comunque potete vedere in rete o comunque foto di questi enormi serpentoni di persone estremamente ordinati, formate a migliaia di persone, che si apprestavano a votare per la prima volta, decretandosi la fine del regime dell'apartheid. Ma al di là appunto di quella che era, almeno per quanto ci riguarda, per quanto mi interessa, al di là della giornata delle prime elezioni libere in Sudafrica, il Freedom Day rappresenta, sancisce la liberazione dal regime delle facoltà, e per questo la sua importanza, e per questo anche 2 giorni fa è stato celebrato, ma in una forma non retorica, o almeno da una parte della popolazione sudafricana è stato celebrato in una forma non retorica, ma con manifestazioni contro l'attuale governo, che seppur essendo governo dell'African National Congress, cioè la maggiore organizzazione che si batté contro il regime dell'apartheid, di cui faceva parte anche Nelson Mandela, sta lentamente scivolando una politica fatta di sacrifici, specialmente, e in Sudafrica la stragrandissima maggioranza, specialmente per le classi meno abbienti. E quindi grosse manifestazioni da parte anche della base, dai militanti, da quelli, diciamo, no, dell'African National Congress, contro i funzionari sostanzialmente dell'African National Congress, e da parte anche dell'elettorato, dell'Economic Freedom Fighter, un movimento che alle ultime elezioni sostanzialmente è stato il terzo, tra virgolette, partito più votato, il 7%, e che sta portando avanti una politica contro diciamo, le imposizioni economiche da parte del governo dell'African National Congress, fra cui in particolare, fra cui tra le altre, neppure in particolare l'aumento delle tasse universitarie, l'aumento delle tasse per i servizi sociali e via dicendo. Chiaramente tutto ciò non se lo sarebbe magari mai immaginato. Questa voltafaccia, diciamo, dell'African National Congress, gli African Jazz Pioneers, il gruppo che vi facciamo ascoltare prossimamente, appunto un gruppo sudafricano, in questo caso di Città del Capo, che sostanzialmente combina con il jazz il Marawi, che a sua volta è un sottogenere jazz. E anche qui sostanzialmente ci si basa su ritmi propri nativi del Sudafrica, e vengono stravolti per poi arrivare piano piano a una forma jazzistica molto, molto particolare. Il band leader, il sassofonista, quindi il leader del gruppo, insomma la figura principale, Brent Temin Peliso, fu quello che fondò il gruppo, e che di cui appunto vi facciamo ascoltare il prossimo pezzo, che si intitola Non to Sangoma. Ricordiamo gli African Jazz Pioneers, tutti i loro titoli, e quando cantano, cantano in Xhosa, che è la lingua principale del Sudafrica. Sono gli African Jazz Pioneers, Non to Sangoma. Thank you. con la sentenza che ha fatto scalpore, che è stata accolta favorevolmente, una buona notizia, è stata accolta favorevolmente dai movimenti popolari ambientalisti che si stavano battendo contro. La Corte Suprema sudafricana, proprio dietro le pressioni appunto di ambientalisti e popolazione, ha annullato mercoledì scorso gli accordi di cooperazione siglati dal governo in altri paesi come Russia, Cina, Giappone, Francia e Stati Uniti per la costruzione di nuove centrali nucleari. Il magistrato ha sentenziato ogni proposta o richiesta di informazione per avviare il processo d'appalto e accantonata, così come l'accordo con la Russia che doveva essere il maggior partner per la costruzione di questa centrale. Ricordiamo che il Sudafrica ha la sola e unica centrale nucleare installata nel continente africano. È una centrale costruita dal regime dell'apartheid non solo per rifornire di energia elettrica le industrie, specialmente le industrie estrattive, quindi diamanti, oro del Sudafrica, ma soprattutto, ma anche e soprattutto per portare avanti esperimenti e sperimentazioni per una possibile bomba nucleare, bomba atomica sudafricana. Poi il regime dell'apartheid appunto è crollato e il nuovo governo, i governi che si sono succeduti dal 1994 in Sudafrica non hanno aperto, non neppure iniziato a costruire nuove centrali nucleari. Ecco perché l'importanza di questa sentenza ed ecco perché è stata accolta a un favore dai vari comitati ambientalisti e popolari che si battevano contro. E tutto ciò proprio alla vigilia dell'anniversario del disastro nucleare di Chernobyl. Adesso ascoltiamo il prossimo artista, cioè Sifo Mabuse, nato anche lui a Johannesburg, è un cantante, ha cominciato a suonare in un gruppo che si chiamava African Soul negli anni 60, dopo aver fatto un tour che ebbe molto successo in Zimbabwe. Il nome del gruppo fu cambiato in Harari, dal nome della capitale Harare dello Zimbabwe. Quando è ritornato in Sudafrica ha cominciato a mescolare al jazz il funk e il soul e canta specialmente in Zulu e Soto. Di lui ascoltiamo Taba Bosiu. Thank you. appunto, in particolare il jazz, è una caratteristica fondamentale della cultura urbana sviluppata a Johannesburg e appunto abbiamo detto precedentemente al Sophia Town. E appunto è qui dove ci sono stati gli sviluppi importanti del jazz indigeno, cioè del jazz sudafricano. Negli anni 20 e 30 la cultura urbana delle township che andavano da Durfontein e Joburg era conosciuta come Marabi. Marabi è il riflesso, il modo di vivere della gente vive nei sobborghi. Marabi si chiamavano anche i locali dove si ballava in Marabi, e che erano diventati i centri di vita della comunità e che avevano dato alle classi lavoratrici africane un nuovo senso di identità. E Wilson King Force Silge, un famoso sassofonista jazz, ha così descritto in Marabi. Marabi era l'ambiente, era organo ma soprattutto pianoforte. Ci arrivi, paghi i tuoi 10 centesimi, condividi tutto. Iniziava a venerdì sera fino alla domenica sera. E quindi la musica era fondamentale per la cultura delle township, dava un senso di identità alla popolazione nera e conseguentemente era avversata veramente da regime dell'apartheid, non solo perché formava un'identità e una cultura, ma anche perché questi posti, chiamati Marabi, i locali stessi per estensione della musica Marabi, erano quelli in cui appunto ci si trovava da venerdì alla domenica e dove appunto non si ascoltava solo musica, non si ascoltava soltanto la musica, non si parlava soltanto di musica, ma si ascoltava e si parlava anche di come fare le prossime iniziative politiche, il prossimo corteo, la prossima forma di resistenza contro il regime dell'apartheid. E quindi i gruppi rurali hanno iniziato a suonare sempre di più lo swing, e a questo punto i musicisti sudafricani, si parla degli anni 40, a Sophia Town svilupparono un proprio nuovo suono chiamato Tsava Tsava, che ha unito la melodia sudafricana con lo swing e il jazz. Poi lo Tsava Tsava si è evoluto nella quela, è iniziato come musica di strada basata sul penny whistle, cioè su clarinetto e su flauto. È quindi uno street jazz sostanzialmente, in cui i giovani musicisti suonavano il penny whistle, come viene detto in inglese, quindi è come lo chiamavano anche loro, il clarinetto oppure anche il flauto, e mescolavano la musica indigena con altri elementi musicali, tant'è che viene formata questa nuova musica, e il termine quella che appunto significa qui prendi quella è stato spesso il nome dato ai furgoni la polizia vagavano per le strade e cercavano di prelevare gli abitanti, diciamo, di Sophia Town, oppure quelli che andavano a Sophia Town, proprio perché rappresentavano solo e poi il fatto di essere lì una minaccia al regime dell'apartheid. Poi successivamente questa musica di strada si è, diciamo, sostanzialmente trasferita anche nel studio, sono iniziati i primi dischi, e uno dei primi a incidere fu Jones Spokes Masciani, nato in questo caso non a Joburg, a Pretoria, che è la capitale del Sudafrica, molto vicino a Johannesburg, e che quindi tutti i fine settimana si trasferiva, andava a Sophia Town per suonare in strada, e poi successivamente sempre a Sophia Town, dove c'erano gli studi, diciamo, i primi studi di incisione per il jazz sudafricano, e dove era forte la comunità Soto, cui appunto ne faceva parte Jones Machian. Di lui facciamo sentire un pezzo in cui appunto c'è questa particolarità del clarinetto, proprio un ritmo della quella, e si intitola Banana Ba Rustenburg. E vi ricordiamo, siete sempre all'ascolto di Radio Wombat, che potete ascoltare in streaming a wombat.noblogs.org, è sempre il sito di Radio Wombat, oltre ad ascoltare lo streaming, potete vedere il palinsesto delle trasmissioni, la descrizione delle varie trasmissioni e potete scaricare anche i podcast, cioè le registrazioni delle trasmissioni già andate in onda. C'è un menu apposito, il primo sulla sinistra, qui c'è scritto appunto podcast, lo scorrete e lì ci sono tutti. E le varie trasmissioni ordinate in ordine alfabetico fino ad arrivare all'ultima che è Uru, ci cliccate dentro e poi da lì vi appare la schermata, cioè la pagina con tutti i vari podcast ordinati in ordine di trasmissione. Ricordiamo anche l'account Twitter, Radio Wombat Fi, l'account Facebook, Radio-Wombat-Firenze e l'indirizzo di posta elettronica posta wombat chiocciola in siberia.net. Adesso parliamo di un'altra figlia di Sophia Town, e cioè di Dolly Ratebe, cresciuta appunto a Sophia Town, una cantante di grande talento, che lì ha cominciato a cantare nei nightclub. Nei Marabi, come si diceva prima, e dopo ha cominciato a cantare anche con le big band sudafricane, ha fatto diversi tour. Poi, quando l'apartheid ha mandato via, deportato la popolazione non solo nera, ma anche la colored, cioè i meticci. E la popolazione di origine asiatica, che è molto numerosa in Sudafrica. Vi ricordiamo che, per esempio, Mahatma Gandhi abitava in Sudafrica. Cioè, dopo aver spostato tutta la popolazione non bianca, diciamo, da Sophia Town e averla rasa al suolo e chiamata Triunfo, dopo trionfo, Dolly Ratebe è stata osteggiata dall'apartheid e non riusciva a trovare, ad avere la possibilità di esibirsi. Quindi, dopo ha smesso di cantare. Adesso è nella Ika Gang Women's League e fa sempre, lavora con la comunità, specialmente su donne e popolazione povera dei Capland. E adesso di lei ci sentiamo Ti api che noga, Dolly Ratebe. Noga kiji tapi tapi kino, noga ya meti ya lelesi. Noga kiji tapi tapi kino, noga ya meti ya lelesi. E Jazz e Pistols, il gruppo che vi facciamo ascoltare successivamente, era stato il primo gruppo importante del jazz sudafricano. I membri includevano Dollar Brand, cioè Abdullah Ibrahim, di cui abbiamo già sentito un pezzo precedentemente, Kippie Moeketsi al sassofono, Jonas Wang al trombone, Hugh Masekela alla tromba, e anche Johnny Gersi, Erli Mabuza e Makayan Shoko. In questo caso Makayan Shoko alle percussioni. E il gruppo divenne famoso dopo una performance, una jam session chiamata Jazz at the Odin all'Odin Theatre a Sofia Town. I Jazz Epistolae registrarono nel 1959 il primo album, sostanzialmente è stato il primo album di una band nera sudafricana, si intitolava appunto Jazz Epistolae verso 1. Nello stesso anno si trasferirono, andarono non soltanto a Johannesburg ma anche nel resto del Sudafrica e si aggiunsero e cominciarono a cantare anche insieme a loro Miriam Makeba e alcuni membri dei Manhattan Brothers. Poi c'è il passaggio, come dire, il passaggio fondamentale nelle lotte e anche conseguentemente nella musica sudafricana, cioè il massacro di Sharpeville del 60. Inizia questa nuova era di grande repressione dei movimenti politici, dei movimenti sociali e anche della cultura sudafricana. E dopo il massacro di Sharpeville il governo impose lo stato d'emergenza, arresti di massa, bando di migliaia di persone e attivisti incarcerati senza processo. La repressione chiaramente era estesa anche all'arte sudafricana e il jazz, che era una se non la più forte forma espressiva musicale e quindi anche di richiesta di un'uguaglianza sociale, non ne fu in mondo. E quindi tutti i vari musicisti jazz, in particolare quelli che abitavano, comunque suonavano a Sophia Town e nel District 6 di Città del Capo, si dispersero, andarono per il mondo. E a differenza di quello che pensava il regime dell'apartheid, invece tacere portarono, diciamo, il loro messaggio, un messaggio di uguaglianza, di no apartheid, di non discriminazione razziale in tutto il mondo, e quindi le condizioni in cui vivevano i neri sotto l'apartheid furono conosciute ancora da un maggior numero di persone. Le Jazz Epistolae vi facciamo ascoltare Schuyler Department. Thank you. Questo era il nostro ultimo pezzo, vi lasciamo qui, vi aspettiamo venerdì prossimo in diretta alle 21.30. Se volete ascoltare le repliche, perché magari avete perso un pezzo di trasmissione, le potete sentire la domenica mattina alle 10 e il lunedì alle 14. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao.